GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Timori per l'innalzamento dei prezzi dell'energia, la situazione è già difficile, si aggrava a causa dell'instabilità e dei nuovi scenari di guerra. In questo quadro le famiglie sono alle prese con il passaggio al mercato libero per il gas, i consigli dei consumatori. Adesione del 90% allo sciopero della DL Radiators di Moimacco dopo i tagli annunciati dall'azienda, a rischio 50 posti di lavoro. Università di Trieste, immatricolazioni record, più 22% rispetto allo scorso anno, aumentano gli stranieri. La popolazione diventa sempre più anziana e per un invecchiamento attivo diventa sempre più importante il ruolo dei geriatri, l'esempio di Licia Ferz, la nonna social di Trieste. Sono oltre 50 gli esperti da tutto il mondo che da oggi a Trieste parteciperanno al convegno organizzato in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo La coscienza di Zeno, dello scrittore triestino Italo Svevo. Sotto la lente le numerose riscritture dell'opera tradotte in una trentina di lingue. Buongiorno da Maria Spezia e Andrea Covri in studio per questa seconda edizione del giornale radio regionale. Apertura dedicata alla politica economica. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga è partito infatti oggi per gli Stati Uniti insieme con lo staff ristretto per una missione politica ed economica. Come aveva anticipato lo stesso governatore alcuni giorni fa, due sono le tappe previste a Washington e a New York. Nella capitale gli eventi principali cui prenderà parte sono un incontro con la National Italian American Foundation. Poi è previsto un appuntamento con il Transatlantic Investment Committee con due giornate all'ambasciata italiana. Probabilmente Fedriga parteciperà all'arrivo a un ricevimento alla Casa Bianca con la First Lady Jill Biden. A New York invece sono programmati incontri bilaterali con alcune aziende. In Friuli Venezia Giulia ci sono anticorpi e antidoti per non girarsi dall'altra parte, anticorpi che nascono dall'attenzione a segnalare ciò che è anomalo. Lo ha detto Antonio De Nicolo, procuratore distrettuale antimafia di Trieste, nel corso di un incontro al Centro Veritas di Trieste. De Nicolo in questo senso ha fatto l'esempio della sparatoria in centro 2 anni fa, quando una studentessa ha girato un video con il telefonino, rivelatosi poi fondamentale per incastrare uno dei responsabili. Anche se in Friuli Venezia Giulia partiamo da un'attitudine ottimistica, insediamenti mafiosi stabili, ha assicurato, non ci sono, ma secondo il procuratore non bisogna abbassare la guardia in alcun settore, citando in particolare le compravendite di immobili in contanti avvenute spesso a Trieste negli ultimi anni. Secondo De Nicolo non sarebbe male se chi riceve proposte di acquisto con grosse cifre in contanti si facesse qualche domanda. Dobbiamo cogliere questi segnali, quanto più lo facciamo, ha detto, tanto più riusciremo a non essere permeabili a infiltrazioni della criminalità organizzata, ha concluso De Nicolo. L'anno accademico appena iniziato vede l'Università di Trieste superare di slancio quota 5.000 immatricolati. L'Ateneo registra un aumento complessivo del 22% nelle iscrizioni rispetto allo scorso anno. Crescono di oltre un quinto le immatricolazioni all'Università di Trieste in appena un anno, più 22%. Si consolida una tendenza che prosegue da qualche tempo. È stato del 33% l'aumento in 4 anni, il più recente riferimento rispetto al periodo prepandemico. In termini assoluti, si è passato dai 3.827 del 2019 ai 5.091 di quest'anno, un numero peraltro ancora provvisorio. C'è tempo infatti fino a febbraio per iscriversi alle lauree specialistiche, mentre proseguono gli scorrimenti per i corsi a numero chiuso. L'università è sempre più rosa. Le nuove iscritte sono ormai oltre il 60% del totale. 3/4 degli studenti provengono da fuori Trieste, tendenza che va ulteriormente consolidandosi con arrivi da regioni storicamente più fedeli all'Ateneo come Lombardia, Puglia, Sicilia ed Emilia-Romagna. Altro dato di rilievo, la presenza di studenti esteri cresciuti di 7 volte rispetto al 2019. Sono ormai un decimo dei nuovi iscritti, oltre 500. Parla di un ottimo risultato il rettore Roberto Di Lenarda, secondo cui sono diversi gli elementi alla base del successo, per esempio la creazione di nuovi corsi in lingua inglese che attraggono stranieri che non parlano italiano, l'abolizione del numero chiuso in alcuni corsi come chimica e l'innalzamento della soglia di ISEE, 26.000 euro, sotto la quale non si pagano tasse di iscrizione. Tutto ciò a dispetto della crescente difficoltà a trovare alloggi nel privato a prezzi abbordabili anche a causa della forte domanda di turismo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, traffico in tilt e lunghe code stamattina a Trieste sulla strada costiera in direzione del centro. Poco prima delle 9 c'è infatti stato un incidente tra una moto e un'auto all'altezza della galleria naturale che non ha comportato gravi danni ai conducenti coinvolti ma ha causato una notevole congestione del traffico, un ostacolo che si è sommato a quello costituito dal cantiere in corrispondenza della tenda rossa dove si marcia a senso alternato tramite un semaforo. I nuovi venti di guerra causano timori sempre più evidenti per l'innalzamento dei costi dell'energia, una situazione difficile cui si aggiunge la scelta per le famiglie sul passaggio al mercato libero per il gas, senza contare gli effetti dell'inflazione e del caro carburanti. Le associazioni dei consumatori invitano a fare scelte ponderate. I depositi di gas quasi pieni non danno garanzia di prezzi stabili dell'energia, soprattutto in caso di inverno freddo. Preoccupate per i mesi a venire le associazioni dei consumatori, difficile assistere al ritorno di valori del metano comparabili a quelli dell'anno passato, indicano, ma le bollette potrebbero mettere a dura prova i bilanci familiari già fiaccati da caro carburanti e inflazione. Il suggerimento di Ennio Toniutti, vicepresidente di Adiconsum CISL FVG, è quello di prestare molta attenzione nei consumi ricorrendo a tutti quegli accorgimenti di risparmio energetico già utilizzati l'anno scorso. In questi giorni stanno arrivando lettere e chiamate da parte degli operatori perché da gennaio 2024 cesserà il mercato tutelato per il gas col passaggio al mercato libero, per la luce invece questo passaggio avverrà ad aprile. L'invito è alla calma, diffidare da chi mette fretta, soprattutto call center, minacciando distacchi, multe o sanzioni. Non ci sarà nulla di tutto questo. Chi alla cessazione della tutela non sarà già migrato, sarà assegnato a un servizio a tutele graduali, con maggiori garanzie per le categorie fragili. Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, dice che il mercato libero può presentare delle insidie. Non fermiamoci in fattura a rigo in cui la materia prima ha un prezzo vantaggioso. Andiamo anche a guardare quella componente variabile, quei centesimi che vanno aggiunti rispetto al prezzo della luce e controlliamo se vengono applicate percentuali di dispersione oppure se ci sono quote fisse mensili che vengono applicate. Erika Cuccu, presidente di Federconsumatori Udine, suggerisce di utilizzare il portale delle offerte dell'ARERA, l'autorità garante per l'energia. In questo momento, su luce e gas, il prezzo fisso è più alto di qualche centesimo rispetto al variabile, aggiunge. Nella scelta bisogna tenere in considerazione i propri consumi. Se sono relativamente bassi, si può optare per il variabile. Se sono più alti e si vuol dormire sonni tranquilli, a fronte di possibili fluttuazioni, ci si può orientare anche sul fisso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, la polizia di Gorizia ha arrestato un 46enne cittadino cinese per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era alla guida della sua auto e stava percorrendo ad alta velocità via Brigata Casale. Gli agenti lo hanno notato e hanno provato a fermarlo, ma l'uomo, alla vista della volante, ha imboccato contromano via del Prato, costringendo gli agenti a inseguirlo per riuscire a fermarlo. All'interno della vettura c'erano altri 4 cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno. Da ulteriori indagini sono emerse ricevute e biglietti che hanno permesso di ricostruire il tragitto del gruppo che aveva attraversato i paesi della cosiddetta rotta balcanica. L'auto è stata sequestrata, il 46enne alla guida è stato arrestato. I passeggeri, fotosegnalati e denunciati per ingresso e soggiorno illegale, sono stati poi affidati all'ufficio immigrazione per gli adempimenti connessi alla loro posizione di irregolarità sul territorio nazionale. I problemi connessi alle patologie cardiache sono al centro del convegno medico aperto a Trieste, al magazzino 27 del Porto Vecchio, esperti a confronto per 3 giorni. La popolazione invecchia e crescono le esigenze di prevenzione e soprattutto di cura di problematiche che si acuiscono col crescere dell'età, specie le patologie cardiache e cardiovascolari. Occorre una gestione a 360 gradi dei pazienti, anche in un contesto di difficoltà crescente della sanità pubblica. Dice il direttore della cardiologia di Trieste, Andrea Di Lenarda. Purtroppo siamo in una fase molto critica perché c'è un rimbalzo di attività molto importante, solo in parte dovuto al Covid, ha anche altre spiegazioni, la crisi della medicina generale, per cui l'attività non è solo ripresa a pieno, ma è anche aumentata in parte fuori controllo, mettendo in crisi il sistema. Credo che il sistema sanitario pubblico debba essere supportato per far fronte a questi nuovi bisogni di salute. le risorse che in questo momento vengono messe, secondo me, non vengono utilizzate nel miglior modo possibile. La Tre Giorni dei Cardiologi a Trieste si è aperta con l'imaging cardiaco, strumento ormai fondamentale di diagnosi, ma la salute di pazienti sempre più anziani non si può affrontare solo con la tecnologia. Giorgio Faganello, cardiologo di Asugi. La sfida del futuro è la gestione delle risorse rispetto a questi pazienti. È una sfida che noi ci troviamo ad affrontare tutti i giorni, in quanto le strutture, la possibilità di fare esami, la possibilità di fare approfondimenti deve assolutamente essere razionalizzata. Di nuovo il professor Andrea Di Lenarda. Come azienda Asugi abbiamo provato a immaginare un nuovo sistema di cure nel territorio, perché grazie alla nostra direzione abbiamo costruito un dipartimento specialistico territoriale che mette insieme tutti gli specialisti del cronico, cardiologi, diabetologi, pneumologi e nefrologi, per gestire il paziente in maniera globale, unitaria, per cercare di ridurre le ridondanze, e in un momento di crisi di risorse ridurre le ridondanze vuol dire aumentare l'efficienza. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il mondo del lavoro alta l'adesione allo sciopero indetto dai sindacati per il personale della DL Radiators di Moimacco. Si profilano 50 esuberi e 29 mancati rinnovi di contratti di somministrazione. Si aprirà probabilmente la prossima settimana un primo tavolo di confronto tra azienda, sindacati e regione sulla vertenza di DL Radiators di Moimacco. Intanto adesione al 90% alle 8 ore di sciopero indette da FIM CISL, FIOM CGL e WILM per protestare contro i 50 esuberi e 29 mancati rinnovi dei contratti di somministrazione comunicati ai dirigenti sindacali. Pasquale Stasio, FIM CISL. Un ottimo risultato che dimostra come abbiano compreso le motivazioni della protesta dei lavoratori e che stanno dalla parte delle organizzazioni sindacali. Al momento l'azienda non ha battuto un colpo, quindi non si è fatta ancora sentire. Sono arrivati dei primi contatti informali da parte della regione, che sta cercando prontamente di organizzare il tavolo. Tiziano Crissetting, RSU WILM. Chiediamo che l'azienda ci dimostri che questa azienda rimanga qua, non venga dislocata da nessun'altra parte. Cosa che loro non ci hanno garantito al momento che noi gliel'abbiamo chiesto. E poi soprattutto chiediamo un piano industriale. 79 unità a rischio su un totale di 290 dipendenti dello stabilimento friulano che hanno subito messo in allarme i lavoratori. Una vicenda lunga e complessa quella della DL Radiators, azienda leader nella produzione di radiatori tubolari, termoarrede e piastre di proprietà della famiglia De Longhi. Nel giugno del 2022 è stata acquisita al 100% dal gruppo inglese Stirlrad, leader nella produzione e distribuzione di radiatori nel vecchio continente e in particolare sul mercato britannico. Giuliana Ben, lavoratrice. Non è facile per persone che comunque lavorano qui da una vita, che hanno famiglia, che hanno mutui, che hanno, se vogliamo, anche una professionalità minima, dove insomma reinventarsi in un altro posto di lavoro diventa un vero problema. Moimacco, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La friulana Francesca Tomada è entrata a far parte della Giunta Nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti come rappresentante per il Triveneto per il mandato 2023-2026. La nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea svoltasi nei giorni scorsi a Genova. Tomada, commercialista di Udine, ha guidato dal 2017 al 2022 l'Unione Giovani Dottori Commercialisti del capoluogo. Una riforma del sistema fiscale che veda i giovani commercialisti protagonisti nel processo di riordino legislativo, il miglioramento della legge sull'equo compenso, le sfide del futuro legate alle nuove specializzazioni e all'impatto dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sulla professione sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel prossimo triennio dall'Associazione Nazionale. Si sta svolgendo in questi giorni a Trieste, al Museo Revoltella, il congresso fondativo dell'Associazione Internazionale per il biomonitoraggio dell'inquinamento ambientale, uno screening sullo stato di salute del mondo in cui viviamo che si può fare mediante organismi viventi. Misurare la presenza di microplastiche, di mercurio, di piombo, ozono, attraverso materiali biologici che diventano matrici inerti per la raccolta degli inquinanti, si chiama biomonitoraggio dell'inquinamento ambientale, quello portato avanti dall'Università di Trieste. La natura, dice il professore Mauro Tretriak, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, sembra darci tutte le risposte che cerchiamo. Ogni organismo può dare delle informazioni se correttamente interrogato, bisogna conoscerne molto bene la biologia, però fornisce informazioni estremamente preziose sull'ambiente in cui esso vive. Quindi fondamentalmente è una maniera per ricavare informazioni anche molto dettagliate su una serie di situazioni, soprattutto anche di sostanze inquinanti, di presenza di sostanze inquinanti. Tra i più efficaci bioaccumulatori di metalli potenzialmente tossici, i licheni. Qui a Trieste abbiamo una scuola che si occupa dell'uso dei licheni da oramai 40 anni per indagini ambientali, è legata al fatto che questi sono organismi come i muschi che vivono assorbendo continuamente sostanze dall'atmosfera e quindi inevitabilmente, ad esempio, le concentrazioni che troviamo all'interno del corpo di un lichene riflettono quelle che erano presenti nell'atmosfera. Quindi, interrogando il lichene, io posso ricostruire, ad esempio, un pattern, una distribuzione di sostanze inquinanti sul territorio con grande precisione. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, il cielo è variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi, a Gorizia, Udine, Pordenone 21 gradi e mezzo, a Tolmezzo 18, Forni di Sopra 16, Piancavallo 14, Tarvisio 16 gradi e mezzo, Sappada 13 e mezzo, sul Monte Lussari 15 gradi, Monte Zoncolan 14 e mezzo, tornando sulla costa Lignano 21 gradi e mezzo, a grado 22, temperatura del mare nelle due località di 22 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per questo pomeriggio: cielo in genere variabile sulla zona alpina, presenza di nubi basse ma con tempo migliore in quota. Il ruolo del geriatra nell'invecchiamento attivo ha come scopo migliorare la qualità della vita delle persone anziane investendo nella salute, nella prevenzione, partecipazione e sicurezza. Ne abbiamo parlato questa mattina nella nostra trasmissione TV Buongiorno Regione citando l'esempio della nonna social più famosa, la triestina Licia Ferz. Con le mie leggerezze faccio sorridere le persone. Le aiuto a capire che la terza età è un'opportunità e che non c'è tempo per essere tristi. È triestina ma viterbese di adozione, ha 93 anni ed è la nonna influencer più famosa d'Italia. Lei è Licia Ferz ed è la promotrice più appassionata dell'invecchiamento attivo, la dimostrazione di quanto sia importante per il benessere dell'anziano il coinvolgimento sociale e la stimolazione cognitiva. In tutto questo il ruolo del geriatra è fondamentale, perché un medico che si occupa della persona, della sua salute, ma anche dell'aspetto psicologico e sociale. Michela Zanetti, direttrice della struttura complessa di geriatria della SUGI e direttrice della scuola specialistica in geriatria. Quello di salute è importante perché, appunto, all'aumentare del numero di patologie, altrimenti le persone dovrebbero rivolgersi a molti specialisti, e questo fa sì che vengano prescritti molti farmaci e quindi una persona si trova a gestire un certo numero di medicine che hanno delle interazioni tra di loro, polifarmacoterapia, aumenta il rischio di eventi avversi. Quindi uno dei compiti del geriatra è quello di riconciliare la terapia per ridurre appunto il rischio di effetti collaterali. La sanità territoriale a Trieste è in fase di riorganizzazione. Come cambierà il ruolo del geriatra nel nuovo contesto? Il geriatra in realtà è già attivamente impegnato, per esempio è stato realizzato qui a Trieste l'ospedale di comunità con 40 posti letto per malati a bassa intensità di cura che però non possono rimanere al proprio domicilio. Il piano è anche stato implementato, per esempio, con l'ampliamento della rete delle cure palliative. E la terza, diciamo, azione è la realizzazione della centrale operativa territoriale, di con cui anche i geriatri si confronteranno per migliorare la rete di servizi al paziente anziano. Trieste, Vaciuk, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal basket. La vittoria della Pallacanestro Trieste di ieri in casa contro Nardò per 96-82 consente ai giuliani di rimanere in testa alla classifica imbattuti con 6 punti in 3 partite. Ecco le previsioni e gli obiettivi della squadra, così come commentati dall'ala dei biancorossi Giancarlo Ferrero a fine partita. Sarà un campionato difficile, siamo una grande squadra, vogliamo diventare giorno dopo giorno più forti. Però sarà un campionato difficile. Ora siamo 3 vittorie e 0 sconfitte, ma sarà un campionato tosto, in casa e fuori casa. Quindi noi lo sappiamo, siamo qui apposta, però sarà un campionato complesso. Soprattutto in trasferta ci saranno dei campi difficili da andare a vincere. Abbiamo un grande capitano e abbiamo deciso di, alla fine della partita, non so se avete notato come squadra, di fare il giro di campo, no? Vogliamo veramente creare qualcosa di importante tra la squadra e il nostro pubblico. E vogliamo ancora crescere e soprattutto far sì che alla fine questo giro di campo è una testimonianza di come noi come squadra vogliamo essere legati al nostro pubblico. Vogliamo veramente creare qualcosa che quando si viene a giocare a Trieste per gli avversari non è facile. Sempre in A2, vittoria anche per la Gesteco Cividale, che in casa ha avuto la meglio su Chiusi per 82-58, conquistando la seconda vittoria di fila. 23 i punti messi a segno da Redivo. Soddisfatto l'allenatore dei Ducali, Tommaso Pillastrini, per il risultato positivo nei confronti di una squadra temuta, perché lo scorso anno aveva battuto i friulani per due volte e ieri si è dimostrata ancora fisicamente forte e abile nella gestione della palla. Buona anche la continuità difensiva dimostrata dai Ducali, come la capacità di migliorare le percentuali di tiro. Decisiva infine la loro capacità di non avere cali di prestazione. Ancora basket Serie A2 in trasferta sul campo della Tezenis Verona. La Apoel Wild West Udine è stata sconfitta per 77-69. Sentiamo il commento a fine partita del coach dei friulani, Adriano Vertemati. Complimenti a Verona perché ha girato una partita che avevamo messo molto bene sui nostri binari. A metà del secondo quarto avevamo preso veramente in mano le redini del gioco e invece la chiusura del secondo quarto e poi tutto il secondo tempo Verona è stata brava a fare la sua pallacanestro, ad imporre la sua pallacanestro fatta di energia, di aggressività, di presenza fisica, e noi invece ci siamo piano piano adeguati, anzi non adeguati, e questo è il problema, perché è vero che siamo stati in partita fino alla fine quando Clark ha tirato per il pareggio. Però è anche vero che la partita non era più la nostra partita e quindi si poteva risolvere solo con degli episodi favorevoli che non ci sono stati. Cito solamente un dato che fa capire, secondo me, tutto, che sono i punti provenienti dalle palle perse. È vero, Verona ne ha 23 e noi ne abbiamo solo 9. Pallanuoto maschile. Dopo il brutto esordio in Europa Cup per la Pallanuoto Trieste, è arrivata la riscossa in campionato. Ieri vittoria larga alla Bianchi contro il quinto Genova per 17-8. Sabato confronto esterno con la De Acker Bologna. Soddisfatto l'allenatore dei triestini Daniele Bettini, che però guarda con preoccupazione alle gare ravvicinate di campionato ed Europa Cup e pone un primo traguardo a metà dicembre, quando le gare di club si fermeranno fino a febbraio per dare spazio alle nazionali impegnate nei campionati europei e mondiali. Volevo una reazione, l'ho avuta e anche forte, perché abbiamo, posso dire, dominato dalla prima azione in poi, non abbiamo mai messo in dubbio la partita. Giochiamo ogni tre giorni, non ci sono allenamenti, dobbiamo fare viaggi, dobbiamo fare recuperi, dobbiamo fare 100 cose che non c'è il tempo. Purtroppo il calendario è questo, come si dice, abbiamo voluto la bicicletta e pedaliamo forte, perché abbiamo bisogno di fare punti, vittorie, prendere fiducia, imporre il nostro gioco e andare avanti fino almeno fino al 12 di dicembre, poi vediamo. Passiamo agli appuntamenti della cultura. 100 anni di Zeno, ricezioni, riscritture e traduzioni della coscienza di Zeno, di Italo Svevo, dal 1923 a oggi. È il convegno della Tre Giorni dedicata alle celebrazioni per i, appunto, 100 anni del capolavoro svesiano, in calendario fino a sabato 14 ottobre, che coinvolgerà oltre 50 esperti da tutto il mondo. L'evento è inteso a discutere e riflettere sulla molteplicità di spunti che la coscienza di Zeno ha suscitato e continua a suscitare nella trentina di lingue in cui è stato tradotto. Appuntamento a Trieste, nell'aula A dell'Università in Androna Campo Marzio, dalle 14. Ne abbiamo parlato con Tiziana Piras, docente di letteratura italiana all'Università di Trieste, membro della direzione scientifica dell'iniziativa. Questo convegno nasce dall'idea che molti dei nostri autori mondiali, oltre che autori italiani come quelli che vengono citati nel programma, Pontigia, Levi e via dicendo, abbiano tratto ispirazione e a volte abbiano scritto fra virgolette, perché la scrittura è comune a tutti gli scrittori in una certa misura, abbiano potuto prendere La coscienza di Zeno, primo romanzo della nostra modernità, Coscienza di Zeno, che ha dimostrato il nuovo modo di vedere l'uomo nel Novecento. Il Novecento è un secolo, letteralmente parlando, molto ricco di figure. Pensiamo che Svevo scrive contemporaneamente a un D'Annunzio e a un Fogazzaro, e soltanto facendo questi due nomi voi capirete come e differente il tipo di scrittura di uno Svevo dai due scrittori sopra citati. Il convegno quindi vuole offrire la possibilità di un confronto tra studiosi di chiara fama su Svevo e su giovani studiosi, cioè su quelli che porteranno avanti questo mostaggio, questa, diciamo, studio, questo amore per la letteratura, su come hanno visto e su come hanno interpretato Svevo e in particolare hanno interpretato la coscienza di Zeno. Quindi noi qui avremo una parte del convegno che si occuperà dei modi in cui il romanzo è stato visto dai letterati e dalla critica italiana nel Novecento e negli anni 2000, ovviamente fino ad oggi, e dall'altra parte cosa sta interessando invece come la coscienza di Zeno è stata recepita ed è stata tradotta, perché ogni traduzione è anche una, diciamo, è una nuova riscrittura del testo di partenza, è stata in tutto il mondo. Questa edizione del giornale radio regionale è andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Tommaso Vignoni e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Da Maria Spezia e Andrea Covre, grazie per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.